Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, che con la puntata di oggi compie 6 anni di ininterrotta attività, un bel traguardo, non vi pare? Questa è la puntata numero 422, nella quale parleremo di pasti ronzanti, limousine disobbedienti e cosmetici gandiani. Speriamo di avervi incuriositi. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Piccole caparbia redazione è molto fiera di festeggiare i suoi primi 6 anni di attività. Da marzo 2012 infatti produciamo 30 minuti di trasmissione animalista, antispecista e vegan ogni settimana, come potete verificare attraverso i podcast che pubblichiamo nel nostro blog www.restiamoanimali.it. Dedichiamo questa puntata, la puntata di oggi, a una mucca senza nome, una Red Limousine Beef Cow, così è stata descritta nei media, usando il tipico gergo degli allevatori. Tanti giornali in Europa hanno parlato di lei, prima il 23 gennaio per descrivere la sua fuga, una fuga particolarmente significativa in quanto la mucca è fuggita proprio mentre veniva condotta al mattatoio. Poi, nel mese in cui è rimasta libera, si è continuato a parlare di lei per descrivere gli insuccessi di chi aveva cercato di catturarla. La mucca infatti si era improvvisata nuotatrice pur di sfuggire ai suoi persecutori. Infine, il 22 febbraio, l'epilogo. La mucca fuggiasca è stata catturata vicino al villaggio di Siestrzechowice da un gruppo di 5 persone, tra le quali un veterinario che probabilmente le ha sparato qualche tipo di sedativo. L'animale doveva essere recuperato per non perdere il suo valore commerciale, valutato in 5.000 zloty polacchi, che corrispondono più o meno a 1.500 dollari. Ma la non mansueta e non meditativa femmina di bovino non ha comunque voluto darla vinta al padrone e ai suoi complici, ed è purtroppo morta, probabilmente per lo stress, nel furgone che la stava riconsegnando al suo destino, alla sua condizione predestinata, quella di animale da reddito, posseduto, coercito e sfruttato. La nostra redazione, contraria a ogni forma di mercificazione, dedica a questa ennesima vittima dell'ingiustizia, a questa fiera, fuggitiva e ribelle femmina di bovino, per niente mansueta e per niente meditativa, una delle più belle canzoni mai cantate. Your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Baby, I've been here before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. A time when you let me know what's really going on below, but now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you and the holy dove was moving too, and every breath we drew is hallelujah. Mentre il caso della strage di cani randagi a Sciacca in Sicilia potrebbe essere giunta a una svolta, in quanto sembra che siano state individuate due persone sospettate di quel gesto crudele, in Sicilia i randagi continuano a essere uccisi, anzi gli animali uccisi sono in aumento, le ferate notizie rimbalzano da una parte all'altra dell'isola. A Licata, nell'Agrigentino, sono stati trovati 6 cani morti, uccisi anch'essi con esche avvelenate. Altri animali sono stati prelevati agonizzanti e volontari e veterinari stanno cercando di salvare la loro vita. Gli avvelenamenti hanno avuto luogo nella zona di contrada Cannavecchia, non lontano dall'ospedale del paese. I carabinieri e la polizia municipale stanno indagando su questo macabro e sadico caso. Sempre nell'Agrigentino, a Canicattì, nel pomeriggio di martedì 27 febbraio, sono stati trovati impiccati 2 randagi di una 40 di giorni che si trovavano nel terreno di un giovanissimo volontario, Vittorio Russo, che si stava occupando di loro. I 2 cuccioli si sarebbero trasferiti 3 giorni dopo a Milano, dove, grazie alla vasta rete di Vittorio Russo, avevano trovato una bellissima adozione in coppia. Il pianto di Vittorio al momento del ritrovamento è straziante, quanto l'agonia che devono avere sofferto i 2 cuccioli. Domenica scorsa manifestazioni fiaccolate in memoria dei cani uccisi a Sciacca si sono tenute nonostante il clima proibitivo a Roma, a Genova, a Milano, a Firenze e in altre città. A Sciacca 500 persone hanno sfilato in un corteo che ha anche osservato un minuto di silenzio in ricordo dei cani uccisi. Del tutto assenti gli abitanti di Sciacca che hanno disertato la manifestazione. La nostra corrispondente Francesca De Matteis invece ha partecipato alla fiaccolata romana. Ecco il servizio. Tu come cittadina hai visto questo annuncio e giustamente nonostante la pioggia l'hai sfidata e sei scesa in piazza. Assolutamente perché? Sì, siamo qui io e tante altre persone, per fortuna c'è stata una grande adesione, la manifestazione è stata, cioè manifestazione, un sit-in fisso, una fiaccolata è stata organizzata da Animalisti Italiani con la partecipazione di Lab Roma, EMPA e AVCPP. Siamo qui perché vogliamo protestare, più che altro vogliamo affiancare volontari siciliani, in particolar modo di Sciacca, ma un po' di tutta la Sicilia, perché pare che adesso sia un problema molto diffuso, contro lo sterminio che è stato fatto tramite bocconi avvelenati dei cani randagi della città di Sciacca. E quindi che cosa si chiede oggi facendo questo sit-in? A chi si rivolge? Ok, a sostegno degli attivisti siciliani, ma? A sostegno degli attivisti siciliani sicuramente, perché fanno oggettivamente una brutta vita laggiù, vista la mentalità comune, ma soprattutto chiediamo alle amministrazioni comunali, vogliamo ricordare che i sindaci sono i proprietari degli animali che vagano sul territorio, di mettere in atto quelli che sono i loro doveri dal punto di vista proprio legislativo. I cani sono di proprietà del sindaco, stessa cosa vale per i gatti vaganti, quindi iniziassero a mettere in atto delle procedure di sterilizzazione come prima cosa, che è la cosa più importante, e costruissero delle strutture di ricovero e affiancassero i volontari nella loro attività di gestione degli animali sul territorio. La questione di Sciacca però non ha riguardato solo i cani, perché ovviamente tutti parlano di cani. E nessuno parla dei gatti, è assolutamente vero. Il gatto ha lo stesso identico problema che ha il cane a Sciacca. Insomma, diciamo in Sicilia, ma purtroppo anche in altre parti d'Italia, stanno avvelenando anche gatti, intere colonie feline. Questo purtroppo accade anche nella civile Roma e è sicuramente un problema. Non va detto è sempre il sud al nord, perché al nord succede, a Roma spesso e volentieri vengono sterminati col veleno animali, cani, ma nessuno ne parla. Al sud succede di regola e da qui dobbiamo partire, questo deve essere un punto di partenza, ma le grandi associazioni devono denunciare i carabinieri, deve arrivare alla Procura della Repubblica, lo ripeto, noi vogliamo dichiararci parte civile, noi volontari. Queste esperienze di randagismo non dovrebbero forse innescare un nuovo ragionamento e immaginarsi una convivenza nuova con i cani? Ci può essere un cane di quartiere, ma deve essere un'eccezione, perché cani di quartiere, come 2 anni fa è successo a Tigrotta, che è stata avvelenata in Sicilia, era un cane di quartiere da tutti amato, a un certo punto l'hanno trovata morta, avvelenata, ma nessuno ne parla, eppure Tigrotta è morta. Il problema è che le persone preposte, che sia il prefetto, che sia il governatore della regione Sicilia, devono controllare, perché quando vengono stanziati dei soldi, che sono soldi dei contribuenti, in questo caso siciliani, ma potrebbero essere di Roma, di qualsiasi altra regione italiana, quei soldi vengono stanziati per applicare la 281. Le ASP in questo caso sono state inesistenti, punto di domanda. I veterinari della ASL vengono pagati e anche profumatamente. Che cosa fanno se non sterilizzano? Questo morale civile di una nazione. Francesca De Matteis, Piazza San Giovanni, Roma. L'Europa è il più grande mercato al mondo per i cosmetici. Sono 2 milioni le persone impegnate nel settore cosmetico in Europa. I consumatori europei usano almeno 7 diversi prodotti al giorno, tra shampoo, creme e trucchi. Per assicurare che i prodotti siano sicuri, l'Unione Europea ha stabilito che non è più necessario che vengano testati sugli animali. Purtroppo però l'80% dei paesi del mondo la pensa diversamente e permette ancora i test o la vendita di prodotti testati sugli animali. La risoluzione approvata dalla Commissione Ambiente dell'Unione Europea il 20 febbraio 2018 chiede entro il 2023 un divieto globale dei test sugli animali e sulla vendita dei cosmetici testati sugli animali. La risoluzione chiede all'Unione Europea di farsi portatrice di questa richiesta davanti all'ONU e di non lasciare che questa proposta venga lasciata indietro in caso di negoziati commerciali o regole dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Il Parlamento europeo vuole mandare un segnale chiaro. I test sugli animali in ambito cosmetico non sono più giustificabili. Lo ha ricordato la correlatrice Miriam Dalli, deputata maltese dei Socialisti e Democratici, la quale ha detto: abbiamo già mostrato come Unione Europea che il divieto può funzionare, quindi questo è il momento di agire. Nella risoluzione si legge che il bando non ha messo in difficoltà lo sviluppo del settore. Cercare nuove strade per i test aumenta il potenziale innovativo, con effetti che possono essere sentiti anche oltre il settore cosmetico. Secondo una ricerca, la ricerca Eurobarometro del 2016, il 90% dei cittadini europei ritiene che sia importante stabilire standard elevati di protezione per gli animali che siano riconosciuti in tutto il mondo. Sono in moltissimi, si parla dell'89%, a pensare che spetti all'Unione Europea lavorare per la promozione dei diritti degli animali a livello internazionale. Il Parlamento Europeo tratterà questo tema durante la sessione plenaria del marzo 2018. Once we're fed, we shall disappear rapidly. Many moons to the west of here and happily. Our journey never ends. Shut your ears when sirens sing. Tie armbands to your feet. Listen up and you won't go wrong again. Float along on a verseless song and then get to where the two ends meet. Come, come, come, come, come along now. Run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger and boredom. We'll dance and sing till sundown and feast with abandon. We'll sleep. Dal 1 gennaio 2018 è in vigore anche in Italia il regolamento dell'Unione Europea sui novel food, i cibi insoliti, termine molto azzeccato per definire gli insetti che potremo, perché la legge lo consentirà, servire in tavola. È poco probabile però che in Italia ci sia una corsa a riempire i frigoriferi di grilli, di cimici, di bachi da seta e di tarantole. Il vero ostacolo che si frappone tra noi e l'entomofagia è infatti di carattere culturale, come recita l'arcinota frase dell'antropologo Claude Lévi-Strauss: un cibo deve essere buono prima di tutto da pensare. Secondo lo studio più recente di Coldiretti, il 54% degli italiani è contrario a questa novità, i favorevoli sarebbero solo il 16%. Gli insetti vengono definiti come una fonte di proteine e aminoacidi più efficiente rispetto agli altri animali tradizionalmente allevati per l'alimentazione. A parità di proteine prodotte, infatti, sembra che consumino quantità infinitamente più piccole di mangimi, di acqua, di energia, di territorio e che producano meno gas serra. Nel promuovere una dieta a base di locuste e termiti vengono usati gli stessi argomenti che le persone ambientaliste e animaliste usano da anni e anni contro gli allevamenti. Dicono infatti che allevare insetti sia più sostenibile, considerato che il 70% della produzione cerealicola mondiale viene impiegato proprio per sfamare gli animali, che a loro volta nutriranno appena il 10% della popolazione del pianeta. Mangiare carne è un lusso per pochi, cosa che appunto gli ambientalisti dicono da sempre. Adesso c'è un nuovo profitto all'orizzonte, quindi certi tabù cadono e i nuovi allevatori di insetti diventano improvvisamente i nostri alleati. Ma davvero noi possiamo considerare gli insetti viventi figli di un dio minore? Davvero possiamo ritenere un miglioramento mangiare insetti al posto, che so, di bovini, di suini? Su questo tema complicato sentiamo il parere filosofico del professor Luigi Lombardi Vallauri. L'interesse manifestato dai media e dai contributi scientifici favorevoli che ho visto è 1. Dietetico, gli insetti fanno bene. 2. Gastronomico, gli insetti sono gustosi. 3. Ecologico, danneggiano l'ambiente enormemente meno degli animali da macello che mangiamo a miliardi l'anno. Gli interventi contrari sono gastronomici, dicono che gli insetti fanno schifo, specialmente interi, e che sono alieni dalla nostra cultura pastaiola, pizzaiola e bovino, suino, pollaiola. Nessuno degli interventi si è posto il problema etico. Godono, soffrono? È giusto togliergli la vita? Per me invece, come filosofo, è cruciale proprio il problema etico. Sapere se hanno soggettività, psicologia, cioè capacità di godere e soffrire, di preferire e temere, e tutto questo genere di cose. Gli animali che noi italiani mangiamo, cioè mammiferi, uccelli e pesci, hanno un sistema nervoso e un comportamento che dimostrano la loro senzienza e intelligenza, appunto la loro soggettività, e per questo il diritto li protegge, sia pure insufficientemente. Per la soggettività degli insetti bisogna rivolgersi ai competenti, cioè agli entomologi. Io mi rimetto. Come competente in etica e diritto posso solo formulare un principio aperto: se hanno soggettività vanno rispettati secondo i principi della non violenza, se non l'hanno sono come le piante. Dal punto di vista giuridico il termine animali nell'articolo 13 del Trattato di Lisbona, nelle leggi di protezione, negli articoli 544 bis e seguenti del codice penale, sembrano indicare tutti gli animali, non mettono limiti. Ma io credo che sia per il rispetto del benessere dell'articolo 13, sia per la uccisione e per il maltrattamento del codice penale, sia per le leggi di protezione, si possa graduare la tutela e la gravità del reato proporzionalmente alla soggettività degli animali in questione. C'è questa discrezionalità del giudice che può andare da un minimo a massimo della pena, e tutto sommato penso che uccidere un'oloturia o un insetto, se è di bassissimo livello, ma questo appunto non lo so, sia diverso dall'uccidere una scimmia antropomorfa o una mucca. Segue da anni, ricorderà la miniserie in 12 puntate dedicate agli insetti, curata da Roberto Marchesini, etologo, veterinario e filosofo allievo di Giorgio Celli, grande conoscitore di questi animali. Chi lo desidera può trovare i 12 podcast cercando nella nostra homepage Così parlò la locusta. Ammetto, sono malato e questa puntata la dedico tutta agli insetti, di tutte le forme e specie. Abbiamo ascoltato canzoni su mosche, zecche, pidocchi e ragni. Cosa volete di più? Adesso è la volta della ragazza bruco. The Caterpillar, affidato alla voce e ai testi dei Cure, da un album del 1984 che si chiama The Top. Tra una grattatina di testa e l'altra, buon ascolto. Agli insetti è anche la puntata di oggi della rubrica settimanale di cucina Il Pasto Gentile, curata da Gabriele Palloni, autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edizione Newton Compton, che potete trovare in libreria o ordinare via internet. Sentiamo l'audio ricetta di questa settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Prima di cominciare, vi invito ad ascoltare questa musica. Ecco, questo suono richiama immagini di piacevoli giornate di sole in campagna, per quanto mi riguarda quella toscana. E anche se il freddo birbone di questi giorni non è il miglior sposo per un picnic, la ricetta di oggi, dedicata ai piccoli insetti che creano la colonna sonora delle nostre scampagnate, è quella di bocconcini di ceci, perfetti per essere gustati sdraiati nell'erba sopra ad una colorata tovaglia a quadri. Ecco gli ingredienti per le polpettine di ceci al rosmarino. Gli ingredienti per 4 persone sono 350 g di ceci essiccati, rosmarino, una cipolla rossa, qualche foglia di alloro, sale e pepe nero, olio di arachide per friggere. Lasciate i ceci in ammollo in abbondante acqua assieme a qualche foglia di alloro. Fateli reidratare almeno 24 ore. Se 36 meglio, ricordandovi di sostituire l'acqua ogni 12 ore circa. Una volta trascorso il tempo necessario, scolateli bene e togliete le foglie di alloro. Sbucciate la cipolla e tagliatela a pezzetti e unitela ai ceci crudi. Quindi tritate finemente del rosmarino e aggiungete anche questo ai ceci. Condite con sale e pepe e mescolate. A questo punto tritate il tutto con un mixer fino ad ottenere una crema leggermente granulosa. Se necessario aggiungete poca acqua a temperatura ambiente, ma non troppa. Lasciate riposare mezz'ora l'impasto così ottenuto, coprendo con un panno affinché non si asciughi troppo. Fate scaldare l'olio e quando sarà ben bollente formate delle palline. Per facilitare l'operazione potete bagnarvi le mani con acqua fredda o con poco olio. Friggete in immersione in olio caldo fino a quando saranno ben dorate, quindi scolate e fate asciugare su carta per frittura. Potete servirle calde con un pizzico di sale in superficie, oppure fredde accompagnando con una maionese vegan o con una concassè di pomodori fiorentini conditi con olio extravergine, sale e basilico. E ricordiamo che nel nostro blog www.restiamoanimali.it potete trovare in audio ma anche in forma di testo scritto quasi 200 ricette cruelty free. Basta digitare nell'apposito campo di ricerca il titolo della rubrica Il pasto gentile. Siamo in chiusura, vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 423 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti. Stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.